La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci all'appuntamento, un saluto da Franco D'Assisi, La Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. Settimana dominata, per quanto concerne ovviamente il potenziale al botteghino, dal ritorno di Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2, il potere di Electro nei cinema italiani, ma non solo ovviamente, però non tantissimi film che arrivano nelle sale e non particolarmente così, come con temi delicati. Abbiamo In Nomine Satan, abbiamo Nymphomania, che so, settimanina di quelle abbastanza sostenute. Ma parleremo di tutto, di quasi tutto quello che arriva sui nostri grandi schermi. Cominciamo proprio da The Amazing Spider-Man, ascoltando la clip. Come stai? Non so che mi sta succedendo. Sì, lo vedo e ti credo. È strano. Questa forza che ho una tale rabbia dentro. Capisco che non vorresti essere qui, che sei spaventata, che non sai che ti sta succedendo e che non vuoi fare del male a nessuno. Andrà tutto bene. Ho una traiettoria di tiro. Non voglio più che mi sparino. Non ti spareranno. Ehi ragazzi, questo è il mio amico Max. Ti ho parlato di Max. Che nessuno spari a Max. Max. Ecco, siamo solo io e te e sì. Chiacchieriamo. Resta dove sei, resta lì, sta attento. La grata con tutta quell'elettricità. Anche io. Volevo che si accorgessero di me. Se fa una mossa, sparate. Questa è una situazione di quelle di tensione. Siamo a Times Square a New York con i cecchini che circondano Electro e con Spider-Man che cerca in qualche modo di calmare gli uni e di calmare anche l'altro. Allora, The Amazing Spider-Man, come sappiamo, la nuova versione dell'Uomo Ragno è un po' quella più adolescenziale, un ragazzo che insomma vive l'età di tutti quelli come lui e quindi diviso fra le ragazze, fra che figata andare per grattacieli con le ragnatele saltando da uno all'altro, insomma vorrei vedere chi non la penserebbe così, ma anche con l'enorme responsabilità di essere Spider-Man, dover, cioè, occhio e croce, salvare l'umanità un giorno sì e l'altro pure. Si trova di fronte un suo vecchio amico che nel frattempo è diventato nemico, ma questo capita spesso, ricordate anche gli incredibili Disney, no? I supereroi sono pieni di queste storie. Allora, Boris Sollazzo, collegamento con noi, ciao Boris, la domanda è: a me sembra di fronte a questa nuova saga, potremmo chiamarla, rivisitazione comunque dell'anima del personaggio di Spider-Man, che ci sia qualcosa che non quadra. Non riesco mai a capire se sia Andrew Garfield, che non mi sembra un attore particolarmente adatto alla parte, se sia la versione che anche nel doppiaggio italiano sentiamo super adolescenziale di questo supereroe, ma mi sembra insomma che, abbandonata la grande saga del ritorno di Spider-Man, qualcosa non abbia girato più. Credo che dipenda molto, come dicevi, dal doppiaggio, nel senso che il doppiaggio italiano non rende giustizia veramente a nessuno degli eroi e dei cattivi di questo ritorno di Spider-Man, perché a mio parere, pur non essendo all'altezza dell'originale, o meglio comunque di quello che consideriamo l'originale, questo ritorno di uno Spider-Man più giovane, di uno Spider-Man più scapigliato, il suo fascino ce l'ha, perché Mark Webb, che è il regista di 500 giorni insieme, è un signor cineasta, perché Andrew Garfield è un ottimo attore, seppur rovinato, come abbiamo detto, dalla versione italiana, e perché per gli appassionati del fumetto questa versione di Spider-Man è più vicina allo Spider-Man più classico, quindi non a quello moderno ma a quello vecchio, appunto quello un po' più fanfarone, un po' più cialtrone, un po' più divertito, un po' più divertente. E di sicuro, abituati come siamo ai supereroi con super problemi, questo ragazzo, che non è né un miliardario disperato, né un alieno disorientato, né tutto quello che volete, ci può sembrare troppo normale, ma la forza di Spider-Man ai suoi tempi era proprio quella di essere un supereroe molto molto molto umano. Di sicuro ha delle ingenuità, di sicuro è molto targettizzato verso i teenager, e questo non gli dà il respiro che alcuni degli episodi di Raimi avevano. Ma non sarei così severo, come non sarei così severo col giovane Spider-Man, perché è il più giovane dei supereroi e i suoi sbagli, come vediamo anche qua, li fa molto spesso. Il vero problema, il vero difetto del film sono i cattivi, entrambi poco credibili. Danny DeHaan è un buon attore, ma un Goblin Junior scritto piuttosto male, ed Electro è uno dei cattivi peggiori che si è visto fino adesso. E questo per quanto concerne The Amazing Spider-Man 2, il potere di Electro. Aggiungo solo che faccio fatica anche a capire dove si andrà oltre, perché è chiaro che la saga andrà oltre, ma mi sembra che questo taglio che tu dicevi giustamente, molto aderente al fumetto e che ha dato tante storie sul fumetto, forse sul cinema potrebbe presto mostrare la corda, a mio modo di vedere la sta anche già mostrando. Allora andiamo invece a giocare insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi. Dobbiamo andarcene, Gail, prima che ci uccidano, perché ci uccideranno. Che mi dici delle altre famiglie? Di quelli che restano? Di quelli che non scappano? La gente conta su di te. Non voglio nessuno che conti su di me. La Rosa Purpurea @radio24.it è come sempre il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci di che film si tratta, scriveteci il vostro indirizzo, provate a vincere una copia delle due a disposizione in Blu-ray di questo film, un grande successo degli ultimi anni. Più tardi ne ascoltiamo un'altra traccia. È arrivato il momento di parlare della seconda parte di Nymphomaniac, il film che tanto ha fatto discutere di Lars von Trier, tanto ha fatto discutere perché ovviamente quando un film si intitola Nymphomaniac e ha delle scene di sesso esplicito e racconta quello che racconta questo film di Lars von Trier, e quando un film è di Lars von Trier fa sempre discutere. Detto questo, noi avevamo già analizzato quella Rosa Purpurea alla parte 1, raccontando come in realtà si tratti di antierotismo quasi scientifico, anche quando mostra atti sessuali espliciti, e quanto l'asse portante fosse il racconto di una donna come dire sepolta, quasi schiacciata dal peso di questa di questo suo problema, perché vissuto assolutamente come problema e raccontato in una sorta di seduta di psicanalisi perenne come tale. Allora andiamo a sentire una clip di questa seconda parte e poi con Boris cerchiamo di capire che cosa aggiunge, perché ricordiamo il film è uno solo, così era stato mostrato a Cannes in versione integrale, più di 5 ore, per la distribuzione sono diventati due, anche per un fatto di durata, e chiaramente però i due si completano e quindi noi andiamo a completare il racconto del secondo tempo di un film che avevamo già visto. Non c'è niente da sorridere. Volevo solo dire, se hai le ali, perché non volare? Se ti chiedessi di prendere la mia verginità sarebbe un problema. No, nessun problema. Devi chiedere a lui se vuole fare sesso con me. Sì. Mi chiamo Jo. Ciao, Jo. E sono una ninfomane. Sesso dipendente. Noi diciamo sesso dipendente. Questo lo so. Un cigno. Per te va bene se mostro ai bambini il letto dove scopate? Non ho mai incontrato un pessimo essere umano. Beh, adesso sì. Ecco, non... Non funziona così. Non gridano finché non le colpisco. E allora, questi alcuni momenti anche da questa seconda parte. Boris, il mio giudizio non cambia rispetto al primo. Trovo che sia un film da vedere, trovo che Lars von Trier in mezzo a molto delirio ci butti dentro anche tanto cinema in questo suo Nymphomaniac. Chiaro, questa è la parte dove Charlotte Gainsbourg diventa veramente protagonista rispetto alla mera narratrice della prima parte, dove era Stacy Martin, diciamo così, in azione, è un film nel quale il côté sadomaso prevale su quello diciamo normal etero che invece campeggiava nella prima parte. Sì, volendo fare una provocazione, secondo me se ci doveva essere un volume 1, un volume 2, il volume 1 doveva essere Antichrist e il volume 2 doveva essere questo. La cosa che meno mi spiego di questa operazione è proprio questi due capitoli, sono due film che più che complementari sono quasi due film gemelli, o almeno due film paralleli. Di sicuro questo è migliore del primo e di sicuro secondo me ha un impianto intellettuale e filosofico più interessante e anche un coraggio di essere realmente politicamente scorretto. Ci sono dei momenti in cui si vanno a toccare dei temi molto forti, urticanti, più urticanti addirittura del solito essere di Lars von Trier. che rendono questo lavoro più interessante del primo, ma non si capisce realmente quale sia il senso di costruire una struttura di questo genere, che di fatto invece si distrugge volta per volta. Bravissimo Sherlock Gainsbourg, estremamente comunque imperfetto rimane, cioè prima avevamo sospeso il giudizio in attesa del secondo, qua però sembra confermare tutte le cose buone e tutte le cose cattive, però alla massima potenza, perché qui chiaramente si prende delle libertà, come dici tu, non solo sul sadomaso, ma proprio sull'interpretazione del sesso, che prima non si era preso, anche se insomma lo scandalo c'era anche nel primo. Come al solito, secondo me è più interessante ciò che tira fuori dagli attori che ciò che tira fuori dal film Lars von Trier. Di sicuro non è una delle sue cose peggiori, continuo a ripetere che come spesso accade con il cineasta danese, spesso si tende a sopravvalutarlo per l'ottimo marketing che si fa di se stesso. Ricordiamo, allora vedete, finché fa discutere, questo è fuori discussione, allora noi vogliamo mandare 5 coppie di nostri ascoltatori a vedere Nymphomaniac volume 2, dovete scrivere un sms da questo momento al nostro numero 349-238-6666, ripeto 349-238-6666, scriveteci il vostro nome e cognome per andare a vedere Nymphomaniac volume 2. La rosa purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea continuiamo con le proposte cinematografiche di questo fine settimana, con un film particolare, diciamo così, già dal titolo, Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve. Ascoltiamo la clip. Senti, devi darmi una mano a trovare un tizio. È un centenario completamente svitato. Si chiama Allan Carlson. Si è fregato i miei soldi. Trovatelo subito e portatelo qui. Pronto. Considerati già morto. Se vuoi ammazzarmi devi sbrigarti, ho 100 anni. Stronzo. E allora, storia di un centenario appunto, ma ne viviamo la lunga epopea, vita intensa, piena di emozioni. Questo Allan Carlson finisce in questa casa di riposo, tutti pensano che la sua dipartita sia questione di momenti, invece lui arriva ai 100 anni, gli stanno preparando la festa, ma lui se la dà a gambe dalla finestra, perché ha ancora molto da fare e lo spettatore molto da vedere. Boris, c'è dentro anche qui un po' di Benjamin Button, un po' di Forrest Gump se vogliamo, in questa storia diretta da Felix Engren, ricordiamo film svedese, e che però ha ancora una volta la voglia di sorridere, e grazie anche ai suoi interpreti, sulla figura dell'anziano, e qui anzi dell'ultra anziano, perché siamo dalle parti dei 100 anni. Sì, un film buffissimo, è molto interessante, perché come dici tu c'è un po' l'etica e l'estetica di Benjamin Button, ma c'è anche tutto quel cinema che ultimamente si fa affascinare da ciò che prima sfuggiva, cioè la vecchiaia, l'esperienza. Noi abbiamo vissuto per anni con un cinema giovanilistico, con una commedia giovanilistica, non solo in Italia ma anche fuori, che adesso invece ha riscoperto il patrimonio di un'età non più verde e si diverte a declinarlo in mille possibilità. Ecco, certo, questo Forrest Gump centenario onestamente non ce lo saremmo mai aspettato, ed è anche il motivo per cui gli si perdona qualche ingenuità, perché il grado di originalità di questo lavoro io lo trovo molto alto, con questo attore che ha un viso veramente espressivo e che ti appassiona, proprio come faceva Tom Hanks al suo tempo in Forrest Gump, crea un'empatia naturale con lo spettatore che in qualche modo ti abbraccia, ti accarezza e ti fa andare oltre la credulità, ti fa andare oltre anche qualche piccolo difetto di regia e di sceneggiatura. Quindi assolutamente un film, tra l'altro, da poter andare a vedere proprio con i nonni, secondo me. E allora, con questo consiglio noi come dire, passiamo al game, ricordiamo Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve. Allora, seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Dunque, ci saranno fotografi, interviste, ogni persona è venuta qui per festeggiare voi, i miei vincitori. Respirate quest'aria, fanciulli. nuova saga cinematografica che pesca da una saga di successo letteraria per adolescenti, La Rosa Purpurea @radio24.it. Diteci il titolo di questo film, diteci il vostro indirizzo, provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film, appunto. A questo punto andiamo avanti con dicevamo l'ultima opera di Carlo Mazzacurati che ci ha lasciato ormai qualche mese fa. Avevamo visto questo film con Valerio Mastandrea, Isabella Aragonese, Giuseppe Battiston, Katia Ricciarelli, Marco Mazzocca, Milena Vukotic, Roberto Citran. Chiaramente i protagonisti sono Mastandrea e l'Aragonese, ma poi c'è tutto questo sottobosco che piaceva tanto a Mazzacurati e al suo cinema, ancora una volta ambientato nel nord-est, dove due bizzarri esseri umani, un tatuatore e un estetista, cercano di trovare attraverso un tesoro nascosto in una sedia la possibilità di riscattarsi. La sedia della felicità è il titolo del film D'addio di Carlo Mazzacurati. Ascoltiamole una clip. Buongiorno, sono Bruna De Angelis, cercavo il signor Antonio Schiavon. E lei per caso ha comprato qualche anno fa una sedia con dietro un elefante? Zac, arpione, e poi ci fanno l'olio di balena. A proposito, la mia compagna avrebbe preferito che mi tatuassi un delfino. Beh, ma tu non mi sembri un tipo da delfino. Sei il tipo che si fa domesticare, tu? No, direi proprio lì. Allora, guarda che poi le donne passano, i tatuaggi no. I tatuaggi restano. E allora, Boris, La sedia della felicità. C'è anche una certa emozione nel parlare di un film di un regista che personalmente ho molto apprezzato, che sin dai suoi primi film ho seguito un po'. Seguito anche per un fatto anagrafico il percorso, diciamo, della mia vita professionale sul cinema, e devo dire che l'addio a Carlo Mazzacurati è stato un addio piuttosto pesante, anche perché abbiamo perso un regista capace come pochi di interpretare la periferia, la provincia italiana, il sogno di evadere, di raccontarlo senza retorica, di raccontarlo così com'è. Lo ha fatto anche stavolta con questo film La sedia della felicità, con due interpreti che non sono prodotto del nord-est, appunto, come Mastandrea e l'Aragonese, ma che sono molto molto bravi. Sì, Carlo Mazzacurati ha quasi sacrificato se stesso e la sua arte al racconto della provincia, nel senso che il nostro paese e i nostri lati più grigi sono talmente imperfetti che inevitabilmente rendevano un po' imperfetto anche il suo cinema, quindi forse ci ha lasciato senza aver citato davvero il suo capolavoro. E fa ancora, emoziona ancora di più parlare della sedia della felicità, perché dopo averlo visto è difficile non considerarlo un film testamento. Ci sono tutti i camei di tutti i suoi attori preferiti che lo hanno accompagnato in questi anni, c'è una gioia e una leggerezza che lui aveva sempre tenuto a bada in questi anni. Raccontava spesso che lui avrebbe sempre voluto fare una commedia, e poi alla fine queste commedie diventavano invece, si sfogavano nella malinconia, a volte nella passione e anche nella frustrazione. E qui invece riesce a mantenere un sorriso, se non una risata, e un clima surreale nel racconto che ha qualcosa di straordinario. E forse proprio perché sapeva di non avere più tanto tempo, non si va a briglia sciolta, non si mette retini. Il difetto del film è ovviamente che a un certo punto vale tutto, nell'ultima mezz'ora vediamo qualsiasi cosa. Quello che intenerisce di più, ed è una chiave che possiamo dare agli spettatori quando lo vedranno, perché comunque gli consigliamo di vederlo, è che quell'orso alla fine, quella presenza così strana, è Carlo Mazzacurati stesso, e questo dovrebbe far capire più di qualsiasi altra cosa che tipo di uomo e che tipo di artista fosse. E beh, questo allora è La sedia della felicità, andatelo a vedere, perché il cinema italiano ha perso un grande regista, ma questo è appunto il suo film testamento, il suo ultimo film, e chiaramente, come sempre, sorrisi me ne strappa davvero tanti. Grazie Boris, ci risentiamo la prossima settimana. Grazie, alla prossima settimana, buon cinema. E allora, siamo arrivati alla sezione dell'home video, del cinema da vedere in casa, con la soluzione del gioco della scorsa settimana. Sceriffo, quasi non la riconoscevo in Borghese. Beh, il mio giorno libero. Un weekend tranquillo. Abbiamo un'emergenza. Ho già affrontato sangue e morte. So cosa ci aspetta. E allora si trattava di The Last Stand, questo era il film che avevamo scelto per il gioco della scorsa settimana, un film d'azione con Arnold Schwarzenegger che entra un po' nel clima di questo cinema dei vecchi mostri sacri, lui, Stallone, altri che tornano in azione e lo fanno con molta autoironia, in questo caso anche con un film di genere, squisitamente di genere, che però ti tiene lì e non ti abbandona. Troverete i vincitori del DVD sulla nostra pagina Facebook. Andiamo invece a parlare di quali sono i contenuti di questa edizione Un Video con gli amici di Film TV e con Giulio San Giorgio, che è in collegamento con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, parliamo di The Last Stand, l'ultimo film di Kim Ji-won, che per quanto mi riguarda è uno dei maggiori talenti visivi del cinema di oggi, oppure di bellissimi film in Corea, ricordo solo Bittersweet Life. E qui in America, qui giunge in America con questo film, incontra sul suo cammino l'icona decaduta di Arnold Schwarzenegger, che si presta a un action ironico e sfrenato, incredibile e molto divertente. Blu-ray preserva quella che era una delle migliori esperienze di surround dell'anno scorso, l'immagine è perfetta anche se il film è decisamente arcinetico. Ci sono moltissimi gli extra, interviste, making off e soprattutto analisi che smontano e ricostruiscono le sequenze d'azione più assurde e spettacolari del film. E allora, questo per quel che concerne il game della scorsa settimana, ricordiamo ancora The Last Stand, andiamo invece a dare un'occhiata ai palinsesti televisivi della prossima settimana, dove troviamo un film, anche questo, che aveva molto molto impressionato. Questo rientra invece nel genere del fan footage, no? Della finto ritrovamento di un materiale video girato da una telecamera o preso in presa diretta. Pensate per esempio a Rec, la saga spagnola di Rec per quanto riguarda l'horror. Stiamo parlando di Cloverfield, che andrà su Rai Movie alle 12.40 di martedì 29, proprio la prossima settimana. Sì, esatto, è una sera come tante a New York, e New York però da lì a poco si trasforma nel teatro di un monster movie che ricorda di Godzilla giapponese, girato in stile Blair Witch Project, quindi telecamera a mano con un mostro appunto simile Godzilla, ma è anche una riflessione sulle paranoie post 11 settembre declinate alla moda di YouTube. È un film che riflette sulla voracità delle immagini della contemporaneità, ed è anche un film pieno d'azione, tesissimo e anche divertente. Allora, ricordiamolo che è a mezzogiorno e 40, un orario un po' particolare, il 29 aprile su Rai Movie. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata, un saluto a tutti, un appuntamento a sabato prossimo alle 16 qui su Radio 24, come sempre per parlare di tutto il cinema che c'è.